Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento settimanale insieme all'Adico di Mestre, ben trovato e buona giornata Gianluca Codognato. Ciao Mirko, un saluto ai radioascoltatori. Allora, parliamo ancora una volta, è uno dei temi ricorrenti di questo appuntamento, di telefoni, di bollette più in generale, di mercato libero. Libero per modo di dire, Gianluca, perché insomma può anche avere dei costi spostarsi da un operatore all'altro. Diciamo che appunto siamo in un mercato libero, però noi come associazione valutiamo appunto che gli utenti poi non sono così soddisfatti di questo mercato, che è un po' un mercato selvaggio e nel quale molti operatori non si comportano in modo corretto. Proprio da questo punto di vista abbiamo accolto senza stupore la relazione annuale dell'Agcom, che è l'autorità per le comunicazioni, garante delle comunicazioni, la quale chiaramente ha fatto una relazione sulle maggiori problematiche segnalate dagli utenti, e possiamo dire che noi chiaramente quotidianamente le affrontiamo e quindi non possiamo far altro che condividere poi quello che è contenuto nella relazione. Allora, per quanto riguarda appunto le denunce fatte dagli utenti all'Agcom, intanto diciamo subito una cosa, rileviamo che per quanto riguarda l'attivazione dei servizi non richiesti, che era una delle classiche contestazioni fatte dagli utenti, anche rivolte molto spesso alla nostra associazione, cioè portate molto spesso all'attenzione della nostra associazione, qua rileviamo appunto un certo miglioramento, le denunce sono diminuite, e dobbiamo dire onestamente che questo è stato anche merito un po' delle associazioni come la nostra, che hanno denunciato da tempo questo comportamento scorretto. La gente, Mirko, come ben sai, sarà capitato a tutti noi, troppo spesso si trova con dei servizi non richiesti sul cellulare. Adesso è molto semplice, è molto più semplice disdirli, e diciamo che gli operatori cercano di comportarsi in modo più corretto, anche perché hanno preso delle multe a riguardo. Invece dobbiamo rilevare che le problematiche riguardano soprattutto i tempi e anche le modalità per cambiare operatore. Cos'è successo? Ci siamo accorti tutti che negli ultimi tempi ci sono state delle modifiche dei piani tariffari e delle condizioni contrattuali, soprattutto per quanto riguarda i tempi di fatturazione. Infatti abbiamo visto che adesso praticamente tutti gli operatori della telefonia mobile, non quelli della telefonia, no, non c'entra la telefonia fissa perché l'Agcom per ora ha posto un veto, dicevo appunto tutti gli operatori di telefonia mobile fanno la fatturazione non più a un mese ma a 28 giorni. Ne hanno approfittato in questo cambio di fatturazione anche per cambiare delle condizioni contrattuali, perché chiaramente tantissima gente, tantissimi utenti hanno deciso di cambiare operatore per andare a cercare quello più conveniente. In questo caso abbiamo visto che tanti operatori creano grandissimi problemi e si legano praticamente al loro servizio, e si fa molta fatica a cambiare operatore, e molte volte ingiustamente vengono anche addebitati dei costi per la disdetta. Lo diciamo subito: quando ci sono dei cambi contrattuali, l'utente, cambi di contratto, appunto di condizioni contrattuali, l'utente può tranquillamente cambiare operatore senza costi aggiuntivi. E invece abbiamo anche all'Adico tantissime segnalazioni di costi aggiuntivi appunto che gli operatori addebitano all'utente quando vuole cambiare operatore. In questo caso proprio l'Agcom con i numeri dimostra quanto questo problema sia sentito. Infatti, se nel 2015 le denunce per queste problematiche sono state solamente 133, nel 2016 sono state 1218, quindi con un balzo incredibile a livello numerico. Ecco Gianluca, ma allora uno quando se ne accorge, e non è detto che se ne accorga subito, che cosa deve fare, a che cosa ha diritto? Allora, fermo restando che in un mercato libero la persona, l'utente, dovrebbe avere la possibilità di muoversi tranquillamente senza costi aggiuntivi, nel momento in cui ci fossero delle problematiche, invece proprio perché l'operatore mette dei costi anche elevati a volte per poter cambiare contratto, andare con un'altra azienda, ci sono le cose da fare, sono sostanzialmente due: ci si rivolge ovviamente lo dico, a un'associazione come la nostra, ovviamente per affrontare il problema di petto, però diciamo che ci sono anche delle possibilità di mediazione che sono molto hanno risultati molto positivi, quindi si può andare, l'utente può rivolgersi al Corecom, ai Corecom regionali, e presentare un'istanza. Al Corecom dovrebbe presentarsi anche la controparte e in una grande percentuale di casi viene risolta la questione a vantaggio dell'utenza, dell'utente, del consumatore, e quindi insomma diciamo che però purtroppo per risolvere questi problemi bisogna comunque un po' muoversi, bisogna sapersi un po' muovere nell'ambito anche di questi organismi di conciliazione. Per questo noi chiaramente consigliamo, quando ci siano problemi di questo tipo, quando l'utente pensa di essere stato diciamo raggirato dal proprio operatore, la prima cosa da fare, io dico sempre, di rivolgersi appunto all'associazione dei consumatori, perché sono delle realtà che hanno anche dei contatti diretti con questi operatori. Quando invece l'utente fa molta fatica appunto anche a muoversi nella giungla dei call center, e soprattutto insomma abbiamo le conoscenze tali per poter risolvere i problemi. Anche se, ripeto, molte volte siamo noi stessi a consigliare, stampando anche il modulo e spiegando come si compila, di andare direttamente al Corecom, che è appunto un ente di mediazione, una realtà di mediazione nella quale si risolvono molto spesso le questioni gratuitamente, tra l'altro, quindi è sicuramente un ottimo mezzo, un ottimo strumento. E chiaramente però noi lanciamo sempre un appello all'Agicom stessa per vigilare costantemente sul comportamento di questi operatori, che molto spesso è un comportamento assolutamente scorretto. E allora, su questi temi siamo tornati molte volte, credo che ci torneremo ancora, la massima vigilanza e la massima disponibilità anche dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie Gianluca, al prossimo appuntamento. Grazie a te Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.